Siamo in compagnia di Carola Carozzone, responsabile dei diritti umani del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che a Ginevra qualche settimana fa ha coordinato proprio il rapporto e ha presentato il rapporto delle ONG e delle associazioni alle Nazioni Unite. Carola, commentiamo allora questa pagella. Quali sono le principali preoccupazioni espresse dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite nei confronti del nostro Paese? Sì, l'Italia è stata in un certo modo bacchettata, no, dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali. Noi abbiamo sempre un po' la presunzione qui in Italia come italiani di essere stati in passato dei paladini dei diritti umani, della democrazia e di non aver bisogno di migliorarci in termini di diritti umani. Si parla di diritti economici, sociali e culturali, ma per non restare nel generico possiamo fare qualche esempio in concreto? Il diritto all'assistenza sanitaria di base, il diritto all'istruzione primaria, pensiamo per esempio alla questione dei minori non accompagnati in Italia, dei minori stranieri non accompagnati, all'importanza che ha riconoscere ai richiedenti asilo, per fare un altro esempio pratico, un diritto alle cure primarie. Un diritto al fatto di, in questi tempi prolissi che caratterizzano le richieste, l'esame delle richieste di asilo politico da parte della Commissione Centrale a Roma, che possono durare 2 anni, il fatto che magari il minorenne richiedente asilo possa effettivamente andare a scuola e assumirsi le capacità e le opportunità di scelta per il suo futuro. L'impegno per i diritti umani deve essere anche rivolto verso i paesi terzi, verso l'estero. L'Italia non può fare la paladina dei diritti umani per quanto riguarda magari l'abolizione della pena di morte, come effettivamente ha fatto in tutti gli anni passati, però poi nel momento in cui si tratta di riconoscere un effettivo diritto al cibo, un effettivo diritto all'acqua, quei popoli, quelle comunità che non hanno accesso a questi diritti, tirarsi indietro e andare di anno in anno, finanziaria dopo finanziaria, intaccando sempre di più i fondi, per esempio per la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione internazionale e gli aiuti umanitari. Oggi è la giornata mondiale dei diritti umani che le Nazioni Unite hanno dedicato al diritto all'educazione e ai diritti umani. Ci puoi fare un commento e spiegarci bene qual è il senso di questa giornata? L'educazione ai diritti umani diventa uno standard minimo, uno standard di qualità dell'istruzione di base. Quindi anche i ragazzi che frequentano una scuola professionale hanno diritto ad essere educati alla democrazia, alla cittadinanza responsabile, ai diritti umani. Questo in qualunque paese del mondo, in Italia compresa. Quindi è molto importante questo passaggio, non più soltanto il diritto all'educazione e ai diritti umani, come era stato interpretato nel decennio per l'educazione ai diritti umani appena terminato, ma proprio i diritti umani come parte integrante del diritto all'educazione. Nel vostro rapporto supplementare avete denunciato una mancata indipendenza di un'istituzione nazionale per i diritti umani in Italia. Perché manca questa indipendenza e perché l'istituzione nazionale continua a dipendere dal governo? Abbiamo tantissimi organi a livello governativo, abbiamo il Comitato Interministeriale per i diritti umani, abbiamo una commissione straordinaria per i diritti umani dentro il Senato, abbiamo appunto questo comitato interministeriale sotto il Ministero degli Affari Esteri, abbiamo vari comitati e organi sotto i vari ministeri, ma quello che manca è una strategia comune e soprattutto l'indipendenza, cioè dei diritti umani non può essere giudice qualcuno che non sia indipendente, è ormai un'esigenza che hanno riconosciuto tutti quanti i paesi europei, ma non solo, tantissimi paesi in cui vige una recente democrazia, pensiamo all'India, pensiamo al Sudafrica, pensiamo al Costa Rica, penso a tantissimi paesi di democrazia molto più recenti dell'Italia che hanno proprio sposato in pieno questa strategia emersa dal summit mondiale delle Nazioni Unite del 93, in cui appunto tutti i governi si erano impegnati a costituire un'istituzione nazionale indipendente, cioè proprio come se fosse il garante per la privacy, che però si occupa soltanto dei diritti alla riservatezza, no? E alla privacy, mentre quello che è importante sostenere è proprio un authority, un garante, un'autorità di garanzia per i diritti umani tutti, civili, politici, economici, sociali e culturali.